Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, ultima puntata prima della pausa estiva che dedichiamo a un tema un po' diverso dal solito. In questa trasmissione parliamo di innovazione tecnologica, cercando di mettere in luce le opportunità che offre. D'altro canto sappiamo che soprattutto per via della straordinaria rapidità dei cambiamenti c'è oggi un serio rischio di mettere in crisi la stabilità sociale, disoccupazione tecnologica, eccessiva concentrazione della ricchezza, aumento delle disuguaglianze sono ormai problemi più che evidenti, la cui soluzione richiede di mettere a punto un nuovo modello economico o quantomeno dei significativi aggiustamenti. Una proposta in tal senso è quella che Marco Magnani, economista, docente di Monetary and Financial Economics alla LUIS, Senior Research Fellow alla Harvard Kennedy School of Government, fa nel suo ultimo libro intitolato Fatti non foste a vivere come robots. Buonasera Marco, benvenuto a Smart City. Buonasera, grazie. Allora, davanti alle preoccupazioni di chi teme per il futuro, insomma, di fronte a rivoluzioni come quelle dell'economia dei dati, dell'intelligenza artificiale, della robotica, molto spesso la risposta è che quanto sta accadendo oggi non è molto diverso da ciò che è accaduto con la rivoluzione industriale. Tu invece dici potrebbe andare in un altro modo. Perché? Sì, questa volta potrebbe anche essere diverso. Pensiamo ad esempio alla frequenza con cui sono introdotte delle innovazioni cosiddette dirompenti, radicali oggi, che è estremamente superiore rispetto al passato, al tasso di pervasività e all'influenza nelle nostre vite che hanno queste innovazioni. Tra la prima e la seconda rivoluzione industriale è passato quasi un secolo e quindi diciamo l'aggiustamento anche nel mondo del lavoro, nella vita, è stato magari traumatico, ma poi per alcune generazioni si è trovato un nuovo equilibrio. Oggi nell'ambito di un'unica generazione dobbiamo aggiustare il nostro modo di lavorare e di vivere numerose volte, no? Pensiamo oggi contemporaneamente abbiamo una serie di innovazioni, io ne elenco 12, ne descrivo 12 in libro, ma ho fatto fatica a tenerle a 12, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'automazione, la blockchain, tutto questo succede più o meno contemporaneamente, peraltro con un effetto combinatorio, no? Queste innovazioni si autoalimentano, quindi questa volta potrebbe davvero essere diverso. Nel tuo libro citi diverse forme di redistribuzione della ricchezza su cui si sta ragionando, se ne parla spesso di questi temi, ci ricordi le principali? Beh sì, una classica ad esempio è quella che si chiama tra economisti il reddito minimo garantito, che poi strutturalmente sarebbe quello che in Italia è stato introdotto col nome un po' improprio di reddito di cittadinanza. Questa è una sorta di sussidio al lavoro che nella mia opinione spesso e anche secondo molti studi economici non funziona perché crea un po' un disincentivo a cercare il posto di lavoro. Poi c'è il reddito universale. Un reddito universale vuol dire togliere, diciamo, a chi produce reddito una parte della ricchezza e distribuirla in egual misura a tutti. Ci sono degli esempi, in Alaska ad esempio viene distribuito tra tutti i cittadini residenti una quota dei proventi del petrolio dell'Alaska, così viene fatto anche in Norvegia. Ci sono vari meccanismi. Poi il tema è redistribuire, è facile da dire, ma poi per farlo occorre trovare i denari, reperire le risorse, e quindi qui ho cercato di analizzare quelle che sono le tante proposte che sono state fatte in questi anni. La più nota e la più clamorosa è quella della robot tax, è diventata nota perché Bill Gates la citò. Cioè sostanzialmente tassare i robot significa tassare l'innovazione, questo poi porta a creare un disincentivo a innovare. Peraltro se un paese, l'Italia ad esempio, lo facesse da solo, certo, si suicida. Esatto, dice. È evidente che molte imprese andrebbero a investire in innovazione nei paesi confinanti, quindi tutte cose abbastanza complesse. Reperire risorse è sempre complesso, però quando si parla di redistribuzioni di tipo appunto universalistico, come il reddito universale, le risorse in questione sono moltissime. Ecco, e qui veniamo alla proposta che tu fai verso la fine del libro. Anziché di redistribuzione, tu parli di predistribuzione. Che cos'è, come si articola questo concetto? Sì, io sostengo la redistribuzione è qualcosa che dobbiamo fare nel breve termine per affrontare appunto l'emergenza rivoluzionaria e la perdita di posti di lavoro, quindi questo va benissimo, però nel lungo termine la redistribuzione, che per definizione vuol dire togliere da alcuni per dare ad altri, crea un conflitto che secondo me nel lungo termine, se andiamo verso una società con sempre meno lavoro, più lavoro precario, è poco sostenibile. Allora dico, dobbiamo lentamente pensare a un modello diverso, un modello di predistribuzione. Cosa vuol dire? Vuol dire mettere tutti nella condizione, nel momento in cui entrano nel mondo del lavoro, di poter creare ricchezza e anche, diciamo, riceverne una parte. Allora, questo significa tante cose, io mi concentro su tre. La prima è la scuola, quindi scuola gratuita, obbligatoria per tutti fino alla maggiore età, in modo che, così dire, si arrivi pronti a un mondo del lavoro che è assolutamente imprevedibile. La seconda è la formazione professionale, cioè essere in grado appunto di cambiare più volte nel corso delle nostre vite il modo in cui si svolge una professione. La terza è un po' più rivoluzionaria, cioè sostanzialmente l'idea di creare un fondo sovrano all'interno del quale confluiscono delle piccole partecipazioni di tutte le società, di tutte le imprese, e una piccola quota del fondo sovrano viene data ad ogni nascitura, ad ogni bambino che nasce viene data ogni anno una piccola quota di questo fondo, in modo che tutti possano avere anche una piccola partecipazione di capitale in questa società che crea ricchezza anche grazie all'automazione. In questo modo tu togli la tensione della redistribuzione, perché tutti possiamo partecipare alla crescita della ricchezza. Quindi, qualora una persona non trovasse lavoro o lo perdesse, potrebbe integrare o sostituire quel reddito da lavoro con questo piccolo reddito da capitale. È un po' come, diciamo, la somma che i nonni ci mettevano da parte quando nascevamo. Che però non si poteva toccare per un po' di anni, no? E tu infatti proponi questo meccanismo, anche perché c'è una leva finanziaria in quel caso che entra in gioco. Esattamente, fino al compimento della maggiore età o compimento del 25° anno non si possono toccare queste quote e successivamente invece se ne può disporre in misura diversa a seconda appunto della propria ambizione, delle proprie capacità, delle proprie necessità. Per saperne di più, fatti non foste, a vivere come robot di Marco Magnani, edizioni UTET. Grazie Marco. Grazie, buonasera. E allora, cari ascoltatori, come vi ho anticipato, è l'ultima puntata di questa stagione di Smart City. Da domani a quest'ora vi faranno compagnia Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi con Darwin, l'evoluzione della scienza. Insomma, vi lascio in ottime mani. Noi ci risentiamo a settembre. Buona estate a tutti e mi raccomando, passate le vacanze in Italia. A presto!